Epilog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Questa mattina vorrei parlarvi di una notizia che è circolata nella giornata di ieri, nel ieri pomeriggio, su alcune agenzie di stampa, ma immediatamente ha dato un grande scalpore in rete. La cosa che mi sembra molto singolare è che una importantissima agenzia americana proprio per il controllo dei disastri, delle malattie, una specie di protezione civile italiana, per farvi capire che dipende proprio dal Ministero della Sanità, ha dovuto, tramite il suo portavoce, smentire che loro, per quello che loro riguarda, non esiste un virus in grado di rianimare i morti o che esistano sintomi paragonabili a quelli degli zombie. È come se il Ministero della Salute in Italia improvvisamente diramasse un comunicato dicendo: attenzione, non c'è pericolo zombie. Perché è accaduto questo? È accaduto perché da qualche giorno negli Stati Uniti è sorta una specie di psicosi che nasce da una serie di episodi criminosi reiterati che avvengono negli Stati Uniti, di cui abbiamo avuto anche noi eco, per cui gli assassini poi si mangiano i corpi delle loro vittime. E quindi proprio questa agenzia per la salute, per i disastri, aveva tempo fa fatto una campagna divertente in cui spiegava come comportarsi in caso di invasione zombie, dicendo: se voi riuscite a salvarvi dagli zombie, vi salverete anche dai terremoti, dalle inondazioni, da qualsiasi disastro naturale. E davano delle istruzioni semplici di come raccogliersi, di come comunicare, di come mettersi in sicurezza, di come procurarsi acqua, cibo e maniera per sopravvivere. Messi insieme questi dati, l'agenzia ministeriale federale spiega come ci si comporta in caso di invasione zombie, una serie di serial killer che uccidono e mangiano le vittime, per molti americani ieri sera c'era realmente pericolo zombie. Questo mi fa pensare che noi qualche anno fa già facemmo qualcosa di simile, mettendo in guardia l'umanità su un probabile pericolo di invasione zombie. Breaking news. Aggiornamento in tempo reale sull'epidemia di zombie esplose in tutto il pianeta. Ricordiamo che il morso dello zombie è letale e nel giro di poche ore contamina chi lo riceve, trasformandolo a sua volta in morto vivente. Gli zombie di più recente trasformazione possono essere scambiati per persone sane. Si faccia la massima attenzione a familiari, amici, fidanzati, mogli e colleghi con comportamenti stereotipati o espressione del viso statica. Potrebbero già incubare il virus dello zombie. Cioè, praticamente, se vogliamo applicarlo alla realtà di ognuno, quotidiana, guardatevi in faccia la mattina, guardate le persone che vi circondano, guardate in questo momento il vostro vicino di scrivania, guardate il vostro collega, la vostra collega, la persona che guardate dal finestrino dell'automobile, quello che vi sta seduto accanto, notate un'espressione stereotipata, notate dei sintomi di fissità, notate una poca reazione, quindi potrebbe essere uno zombie. Questo naturalmente affonda le radici su una paura atavica che ci circonda del virus, della malattia, della diversità, dell'impossibilità di gestire un rapporto sereno e di accettazione del fatto che prima o poi la vita così bella, splendida, piena di soddisfazioni o anche piena di mestizie debba finire, e quindi c'è il senso della malattia, il senso dell'epidemia, il senso della impossibilità della vita eterna che ci promette molte volte la medicina, la chirurgia plastica e via dicendo, e immediatamente in tutti noi è assimilabile l'idea che possano esistere gli zombie. Breaking news. Nuovo aggiornamento allarme zombie. La maniera migliore per fermare uno zombie è distruggere il suo cervello. Lo zombie non ha più organi vitali funzionali, quindi sparare al cuore o colpirlo nel perimetro del corpo non serve a nulla. Anche amputato, continuerebbe a muoversi. Si consiglia quindi di colpire lo zombie con decisione alla testa, con un corpo contundente, pesante e affilato. Ottimi attrezzi da giardino tipo vanga, zappa o picozze da alpinista. Sono efficaci anche utensili da bricolage come martelli o mazzette. In mancanza d'altro può essere efficace un ferro da stiro, purché sia staccato dalla vaporiera. Un monitor LCD, in alcuni casi, si è rivelato un valido sostituto. La nostra popolazione, composta essenzialmente da Marels e dalle loro fide robuste compagne, potrebbe trasformarsi nella più accanita genia di cacciatori di zombie. L'umarella ha sempre una mazzetta, sempre una picozza, sempre un cacciavite, ha sempre un seghetto multiplo a batteria, la sdaura, la sua compagna, sempre un ferro da stiro, pronto, bello, bollente in mano. Al di là della facezza, guardate che la psicosi c'è stata veramente, veramente in molti blog, in Twitter, per suscitare la reazione di un'agenzia federale, qualcosa c'è stato veramente. Ma cosa è accaduto? Cos'è che ha fatto immaginare che ci possa essere realmente un'invasione di zombie? Beh, ho citato alcuni episodi di cronaca truculenta, di cui vi do un leggerissimo attacco, sperando che ancora non abbiate fatto colazione. Sarà ricordato come il cannibale di Rouen. È successo tutto in Francia. Cocaine era detenuto, litiga con un compagno di cella, lo uccide, gli apre il torace, preleva il polmone, lo fa cucinare con delle cipolle prima di mangiarselo. In dibattimento il suo avvocato lo ha definito completamente pazzo, parlando di irresponsabilità penale. 800240024, guardate quanto un banale episodio di cronaca subito ci riporta un'infinità di letture, di film, anche Hannibal. Il protagonista del Silenzio degli Innocenti sogna di mangiarsi il cervello alla veneta con le cipolle dei suoi nemici quando può e quando non può. Ma noi siamo infarciti di cultura zombie cannibalica. Dal film di Romero in poi, ai telefilm, alle fiction, ai più divertenti videogiochi, a Resident Evil, a una serie infinita per cui questa sorta di Umbrella Corporation che ha manipolato i codici genetici dell'umanità fino a far esplodere il virus zombie. Ci sembra possibile, ci sembra immaginabile. Ma quello che ha preoccupato gli americani sono una serie di episodi di cronaca. Intanto cominciate a chiamare all'800240024. Avete anche voi il sospetto che possa da qualche parte, prima o poi, partire l'apocalisse zombie, proprio come è stata definita dall'Agenzia Federale Americana nella sua campagna promozionale per la protezione civile? Se ci fosse un'apocalisse zombie e voi foste in grado di fronteggiarla, sareste pronti ad affrontare qualsiasi terremoto, qualsiasi alluvione. Questo suona sinistro alla luce di quello che sta accadendo anche nel nostro paese, ma mi interessa dal punto di vista naturalmente dell'analisi delle psicosi collettive. Nell'ultima settimana, ho detto, sono stati vari fatti di sangue in cui è particolarmente ricorrente il fatto che l'assassino si sia mangiato, abbia zannato, abbia sbocconcellato la propria vittima. A Miami un povero clochard è stato aggredito da un uomo tutto nudo che gli ha mangiato la faccia, e poi questo cannibale è stato preso dalla polizia, è stato arrestato. Martedì passato nel Maryland un 21enne ha ammesso di aver fatto a pezzi il suo compagno di stanza e di averlo mangiato il cuore e il cervello. Nel New Jersey un altro fatto di sangue, sempre la stessa settimana, un uomo di 43 anni, Wayne Carter, si è pugnalato con 50 coltellate, poi quando è intervenuta la polizia che era stata avvertita ha cominciato a tagliarsi pezzi di intestino, a tirarli contro i poliziotti. Non è fiction, sono fatti di cronaca. Nel Canada un attore porno, un gigolò con un soprannome che dimostra un'altra lettura fantastica che hanno gli stranieri noi italiani, si chiama Rocco, come Rocco Siffredi, Marchetta, che evidentemente era il suo nome d'arte, che in sé racchiudeva la sua predisposizione e la sua naturale e fisiologica qualità per poter fare questo lavoro. Anche lui ha violentato e mangiato con un rompighiaccio un suo fidanzato, un suo cliente, se l'è mangiato, poi lo ha fatto a pezzi, lo ha chiuso in una valigia, il pezzo principale, gli altri pezzi ne ha mandato un piede, l'ha mandato al Partito Conservatore e per par condicio la mano al Partito Liberale a Ottawa. Lo stanno cercando in Francia, pare sia atterrato in Francia e si è sguinzagliato per l'Europa, quindi aspettatelo dietro la porta. E poi andando ancora avanti ce ne sono un'infinità, ve ne ho citati soltanto alcuni. Ecco, a voi fa pensare che questo possa essere un principio di qualcosa che sta cambiando, e sta assimilandosi in maniera così spaventosa e coerente a quello che è il passaggio fondamentale di tutta la fiction, di tutto l'immaginario contemporaneo. I vivi combattono contro i non più vivi che camminano sulla terra. Fabio, buongiorno. Buongiorno Gianluca, è un piacere essere qui su Melog, io ricordo la citazione di un frontespizio, forse era un libro di Luttazzi, dove lui, anziché mettere la citazione edulcorata, scriveva "sapeva di Manzo, punto", e poi sotto c'era scritto "Jeffrey Dahmer". Il cannibale del Milwaukee. Però quelle sono è passato tanto tempo. In realtà io rimasi sconvolto quando quel tedesco Armin Maiweis si mangiò appunto una persona che però aveva agganciato attraverso la chat, cioè attraverso io metto un annuncio, vendessi motorino a 820 euro, invece questo aveva scritto "io voglio mangiare una persona". Sì, ma quello mi sembra di ricordare era un gioco sadomaso estremo, era consenziente. Sì, c'era è una sorta di sadomasochismo portato alle più estreme conseguenze, in cui la vittima aveva una sorta di idea piacevole del fatto che qualcuno si sarebbe fatto lentamente a pezzi e mangiato. Esatto. Sono divertimenti loro, si sono divertiti. Questo così. Questo è anche vero, sono divertimenti loro spinti alle estreme conseguenze, però mi... Infatti se l'hai mangiato cominciando dalle parti non vitali, mi sembra. Sì. Ha cominciato, credo, dall'innominabile oggetto. Dall'innominabile oggetto che hanno condiviso. Se lo sono fatti al padellino insieme. Vabbè, adesso non vorrei soffermarmi sulla paura generalizzata, perché potremmo andare avanti se sfogliassimo i manuali di psicopatologia e di criminologia forense all'infinito su questo fatto. Lei pensa che sia plausibile che ci sia un'ossessione comune, ecco, alla luce di una maggiore diffusione delle notizie di cronaca estrema, del fatto che un motore di ricerca le possa assemblare, quindi possa fare un database di tutti gli assassini? Non credo ci siano un numero maggiore rispetto al passato che poi fanno questo tipo di scempio sulla loro vittima. E naturalmente il fatto che i social media permettono di far circolare velocemente punti di vista come diventassero realtà. Il fatto, a me sorprende questa mattina, che un'agenzia federale che dipende da un ministero che si occupa di disastri, quindi ha un compito importantissimo, sia andata a maneggiare l'immaginario degli zombie in maniera un po' troppo disinvolta, tanto che ha dovuto poi smentire il fatto che esista veramente un'epidemia di zombie. Sì, è sconvolgente effettivamente questo, nel senso che poi a un certo punto la realtà si infarcisce di fiction fino appunto a fare in modo che la rappresentazione della realtà stessa... La ringrazio, faccio intervenire adesso il professor Wolfgang Lusetti. Buongiorno professore. Buongiorno. È stato già un nostro ospite gradito, psichiatra clinico, psicanalista, ha scritto "Il cannibalismo e la nascita della coscienza", Armando Editore 2008, e ultimamente "Il circuito della sofferenza", Armando Editore 2011. Lei, professore, da anni scrive e approfondisce il fatto che in realtà dentro di noi esista profondo il ricordo di una nostra attività cannibale, e vede che oggi l'immaginario collettivo suscitato dai social media conferma quello che è il suo pensiero. Nicoletti, io ho sentito quello che avete detto fino adesso e devo dire è pervaso da un'ironia che me l'ha reso godibile, insomma, no? Perché questo già sdrammatizza. Ma lo facciamo perché vogliamo sdrammatizzare, chiaramente. Sì, no, ma è anche veramente. No, volevo dire che le mie ipotesi in realtà sono anch'esse nate inizialmente come un gioco intellettuale, no? Però andando avanti poi sono diventate qualcosa di più consistente. Però ecco, sono ipotesi scientifiche, quindi non so se saranno all'altezza di questo filo di ironia che ho sentito fino adesso. Io provo a riportarlo in termini concreti. Quando un'idea fissa si impossesse in maniera così potente e così diffusa dell'immaginario comune, da una parte sono convinto che ci sia un filone fortunatissimo di fiction, di videogiochi, di immaginario, di fumetti, ormai lo zombie fa ridere, non fa più paura, ma la base di questa paura contemporanea, secondo me, è importante che lei ci definisca qualcosa che riguarda la sua ricerca, perché così almeno andiamo più nel profondo. Certo, ma vede, io non nascondo che il mio interesse è più di psichiatra clinico e psicanalista che non di criminologo e antropologo, però ho approfondito molto queste cose, ovviamente mi sono posto degli interrogativi. Io credo che il lato più interessante di questa ipotetica, perché si tratta di ipotesi, attitudine cannibalica dell'uomo non sia tanto il cannibalismo come fatto letterale, no? Quindi questi episodi di cronaca che di tanto in tanto emergono e che poi ripiombano nell'oblio in qualche modo, ci sono forse stati già altre volte. Qualsiasi criminologo mi direbbe, posso azzardarmi, che è una casistica ricorrente. È una casistica ricorrente. A me sembra che l'aspetto più interessante sia quello che io definisco in termini di equivalenti cannibalici, perché se è vero che l'attitudine cannibalica fa parte del repertorio comportamentale sia degli ominidi che dell'uomo, e questa è un'ipotesi suffragata da molti indizi, sui quali forse non è il caso di dilungarsi per non essere noiosi. Ecco, però è importante questo, professore. è accertato che lo siamo stati noi in qualche fase della nostra evoluzione, da Sapiens Sapiens in poi? Sì, ci sono degli indizi abbastanza suggestivi, non ci sono delle prove definitive, ci sono per esempio degli indizi di carattere genetico, paleontologico e antropologico. Ci sono degli studi di Simon Mead sull'epidemia da Kuru, da malattia dei prioni fra i fori della Guinea Papua, dai quali questo studioso ha tratto la convinzione, l'ipotesi che emerga, che ci sia la possibilità dell'emersione di una resistenza genetica alla malattia da prioni nella nostra specie, che deriva da un polimorfismo genetico che si è stabilizzato almeno 500.000 anni fa. Quindi questo significa che la nostra specie, i suoi progenitori, che ci siamo mangiati tra di noi, ecco, soprattutto i rami collaterali, i progenitori avevano questa attitudine, cioè ci siamo fatti degli anticorpi perché ci siamo sbocconcellati a vicenda, detto in parole povere. Sì, poi ci sono prove, insomma, osservazioni di tipo antropologico, quelle di Eval Follad per esempio. Poi ci sono anche delle prove paleontologiche, ad esempio nella fossa di Erxheim in Germania Bruno Bullesten ha rinvenuto tracce di cannibalismo su 500 persone, insomma questo è un dato abbastanza recente. Però ecco, si tratta, perché noi siamo abituati questo a considerarlo o una maniera rituale di alcune popolazioni particolarmente poco civilizzate, e di questo ne è piena la storia naturalmente, o per i filo, gli italiani sono stati scopritori di un filone cinematografico negli anni 60, il buon selvaggio naturalmente, che l'antropologo, l'esploratore ottocentesco andava a cercare, la sua attività principale era mangiarsi poi l'uomo bianco, un po' era vero e un po' rispondeva a nostre paure. Ecco, però io volevo dire una cosa che mi sembra interessante, cioè che su tutti questi elementi, non dico di evidenza ma quantomeno di indizio, si è sempre accesa una polemica furibonda, nel senso che c'è sempre stata una parte anche preponderante della comunità scientifica che ha teso, insomma, a smontare questo tipo di ipotesi, no? E quindi questo fa pensare a una qualche resistenza, no? Ad ammettere che possa esserci una... Ma le faccio la domanda, perché no? Perché scandalizzarsi? Qual è il tabù? Ho detto proprio, è un tabù, ma a parte ogni essere carnivoro alla fine, se ha fame, mangia anche un suo simile. Ma perché credo che questo sia un nervo scoperto della nostra specie, cioè se noi ci riflettiamo, la nostra è la specie che più di tutte le altre è in grado di utilizzare tutto il mondo che lo circonda in termini di divoramento proprio, no? A cominciare dalle altre specie e per finire con se stessa in qualche modo, per cui al di là del cannibalismo è la specie che più di tutte le altre è organizzata sull'autosfruttamento in qualche modo, no? Sulle guerre, e poi ci sono altri fenomeni che a me come psicopatologo interessano molto, che sono quelli che io definisco gli equivalenti cannibalici, per esempio le perversioni sessuali, per esempio la pedofilia, cioè sembra che... Quindi il pedofilo in sé ha qualcosa del cannibale? Mi pare proprio di sì. Silvana De Marico, la nostra ospite, che è una autrice di fantasy, oltre però a essere un medico, dice che alcune favole come Hansel e Gretel e via dicendo, alla base hanno proprio l'insegnamento di stare attenti agli adulti che si mangiano i bambini, quindi pedofili. Esatto, cioè anch'io ho scritto un libro sull'argomento fiaba in cui trattavo esplicitamente questo tema, per cui mi pare che insomma tutto l'immaginario collettivo della nostra specie, la stessa mitologia è pervasa, la stessa religione di elementi di cannibalismo, e quindi credo che questo sia veramente un nervo scoperto, no? Che determina poi anche delle resistenze a affrontare scientificamente questo problema. Allora, fermiamoci solo un secondo, professore, sento due ascoltatori, così vediamo anche nel pubblico come viene percepita questa riflessione. Vedete, partiamo da una notizia, abbiamo lambito ironicamente quello che è la cronaca, le paure, però il professore ci sta riportando a un'analisi di tipo profondo e interessante. Mattia, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dare le tre regole fondamentali per salvarsi da un attacco zombie. Lei ha riflettuto allora, su questo? Sì, ho riflettuto, ci sarebbero anche molte più regole, però io per... Diamone tre, che così non ci confondiamo. Sì, ecco. Esatto. Allora, innanzitutto bisogna essere magri, perché lo zombie appena risorto è molto veloce rispetto a quanto la cinematografia ci fa immaginare. Appena risorto è ancora pieno di vitalità, quindi corre quasi quanto un essere umano vivo. Quasi quanto un essere umano vivo, quindi bisogna... Poi comincia a putrefarsi, naturalmente si spappola e corre meno. E certamente, quindi i ciccioni sono i primi a morire. Vedo il professor Chiappini che suda freddo al di là del vetro, che è il nostro fornitore di B-Movie, prego. A tempo. Il, sec- la seconda regola è stare lontani dalle città, tipo Milano. Noi che siamo di Milano dobbiamo andare via, perché dove ci sono più zombie c'è più probabilità che i governi, ormai allo sbando, cerchino la sterilizzazione, no? Quindi buttano la bomba per cercare di arginare un'epidemia, anche se... Sì, però io ho visto gli ultimi telefilm sui zombie, le cosiddette mandrie, sono grossi numeri di zombie che si spostano anche nelle campagne e nelle periferie. Sono quelli che non sono stati sterilizzati, però infatti teoricamente nelle città vengono sterilizzati. Meglio sarebbe la montagna a questo punto, dove lo zombie fa più fatica a salire. Quindi il cucuzzo della montagna è così contro. E poi la terza regola? Terza regola, mettere le cinture di sicurezza negli spostamenti, perché... abbiamo imparato che la metà dei morti in caso di attacchi zombie non sono divorati dagli zombie, ma sono incidenti d'auto stradale per zombie investiti. No, lei sta dicendo una cosa giusta. Allora, in caso di epidemia zombie, uno pensa che si possano abbandonare le regole di sicurezza, dico, tanto i vigili o sono morti o sono zombie, non mette la cintura, all'improvviso incappa in una mandria zombie, frena, ha un impatto, però magari viene proiettato fuori dal vetro, quindi anche ferito, diventa prima vittima degli zombie. Molto interessante, ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa, poi riprendiamo con le regole per sopravvivere a un'invasione zombie. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Uomo comune, pensi che la tua casa sia un luogo sicuro? Immune a minacce e o invasioni di varia natura? Scopriamolo insieme. Per prima cosa è importante la prevenzione. Ove possibile, l'uomo comune deve prendere alcune semplici precauzioni. Non lasciare mai la porta di casa aperta. Tuttavia, una semplice spinta potrebbe non bastare. È altresì fondamentale chiudere a doppia mandata con chiavi o chiavistelli. Difatti, essi paiono non essere in grado di fare duplicati delle chiavi. Controllare che tutte le finestre siano chiuse ermeticamente. Ogni pertugio può essere infatti un potenziale punto di accesso. 800 24 00 24, questa mattina stiamo ironizzando ma anche approfondendo, perché ci sono sempre delle radici da conoscere rispetto a ogni fenomeno di massa, ogni moda culturale, ogni notizia che assomiglia alla facezia. Abbiamo iniziato stamattina riportando un lancio d'agenzia di ieri pomeriggio, per cui l'Agenzia Federale Americana, che dipende appunto dal Ministero della Salute, che si occupa di disastri, grandi malattie e tutto, ha dovuto fare una smentita ieri pomeriggio dicendo: guardate, state tranquilli, non c'è nessuna invasione di zombie. Questo perché era nata una psicosi in vari blog, in parte corroborata dal fatto che la stessa agenzia aveva fatto una campagna di informazione settimane prima in cui spiegava come comportarsi in caso di invasione zombie, ma lo faceva per spiegare che in fondo le regole sono stesse in caso di qualsiasi calamità. Vogliono fare gli spiritosi, ma la gente l'ha presa sul serio. Una serie di episodi di criminali che si sono mangiati le loro vittime, particolarmente insistente nei media nell'ultima settimana, ha fatto sì che scoppiasse in America, almeno nei blog, su Twitter, nei social media, la psicosi degli zombie, e loro hanno smentito. Questa mattina con il professor Lusetti abbiamo capito che in realtà Wolfgang Lusetti, dietro la psicosi collettiva, la paura degli uomini che si mangiano se stessi, fra di loro, nella stessa specie, è sì un grande filone di fortunata fiction, ma c'è anche degli studi approfonditi che in fondo direbbero che in un certo periodo della nostra evoluzione, ma nemmeno tanto in là, eravamo già sapiens sapiens, già eravamo più o meno come adesso, ci siamo smangiucchiati a vicenda. Questo ci ha fatto anche bene, perché abbiamo accumulato degli anticorpi che altrimenti sarebbe stato difficile avere. Sergio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, noi abbiamo costituito questo comitato RAZ, Resistenza allo Zombie. Voi chi? Pronti, mi sente? Sì, sì, ma chi? Voi, quando parla voi, chi? Degli amici, un gruppo di persone? Degli amici, un gruppo di questi gruppi di resistenza su internet e queste cose qua, di cui ne avete parlato un po' di sì, tempo. Beh, stiamo mandando qualche piccola clip. Esistono in varie parti del mondo, ma anche in Italia, qualcuno poi ne sentiremo, gruppi che si stanno organizzando con dei corsi, studiando, leggendo, c'è una manualistica impressionante, bravo. Per difendersi così dagli zombie. Ma voi pensate che prima o poi accadrà? Noi praticamente abbiamo scoperto questa una nuova categoria o ancora non catalogata di zombie, che sono praticamente i morti che non sanno di essere zombie e continuano a comportarsi come delle persone normali, però questa categoria qua è un pericolo ancora più subdolo, che diventeranno zombie come quelli dei film alla fine, prima o poi, questo pensate? Assolutamente sì. Ma che si può sparargli in testa e questi? Finiranno per mangiarci ovviamente il cervello come... Certo. Non si può sparargli a questi, però, scusi, non è che potete sterminare tutti quelli con comportamenti strani, non rimarrebbe nessuno. Infatti praticamente noi abbiamo visto che queste categorie di zombie cercano dei posti dove radunarsi, che noi chiameremo parlamentini e cose varie. È una satira politica, non avevo capito. E praticamente capito. Dobbiamo cambiare un attimino. Non avevo capito, il modo che noi facciamo del consenso, anche non allora. Volutamente, e teniamo in vita questi morti viventi, sì. Facciamo a loro che... caro mio. C'è sempre un'arma segreta contro... c'è ironia, qua stiamo parlando seriamente. Andrea, vediamo se ritorniamo a parlare seriamente di zombie. Sì, buongiorno. Intanto saluto tutti. Infatti che la motosega è un elemento finale nei confronti dello zombie. Taglia la testa e risolve il problema. Sì, si taglia la testa, se ne fanno di ogni agli zombie. Io sono un appassionato di zombie, nel senso che un po' mi interesso di quello che riguarda il mondo che potrebbe essere, e quindi le implicazioni, tra virgolette, economiche e sociali, se ci fosse realmente un attacco zombie. Io credo che in una situazione mondiale in cui le persone hanno paura del domani, ecco che allora ci si immedesima in quello che potrebbe avvenire. Cioè, lo zombie di per sé siamo noi stessi. Siamo noi stessi, è la paura che abbiamo di noi stessi. Allora, non le resta onestamente che farti saltare il cervello se lei pensa di essere uno zombie? No, perché ci sono i metodi. Allora si può guarire dallo zombismo? Secondo lei si può guarire? No, non si può guarire dallo zombismo. Cioè, se rimaniamo... Non si può avere un atteggiamento zombie tollerante, considerare lo zombie non come un diverso, una persona che può avere una vita quasi normale. No, non si può, nel senso che se rimaniamo con la classica ideologia dello zombie di Romero, non si può. Lo zombie vive, cioè non vive, e per rimanere in piedi deve mangiare la carne. Ma magari può essere educato a uno stile vegano, vegetariano. No. Bella, questa mi è piaciuta. Non lo so. Lo zombie vegano potrebbe essere interessante, sì. No, è impossibile. Però ci sono dei manuali, che sono molto belli anche da leggere, del figlio di Mel Brooks, che si chiama Max Brooks, che ha fatto un libro che si intitola Guida alla sopravvivenza degli zombie, che è stupendo. L'ho citato, oggi vadate nello spazio web di Melog su Facebook, ho citato qualche manuale, c'è una manualistica molto interessante, sì. Sì. Ma anche perché è veramente approfondito, cioè lui tratta come si... Allora, le faccio un esempio che molti magari non ci arrivano, nel senso, se c'è un'epidemia zombie, i posti più sicuri sono i posti antichi, sono i castelli, per esempio. Lì però dopo magari c'è qualche vampiro rimasto da qualche epoca. No, vabbè, lasciamo stare i vampiri, però il problema adesso è che qua... l'America, a parte che si fa prendere da tutte le paure di questo mondo, ricordiamoci Orson Welles quando ha fatto quel comunicato che e l'America ha incominciato a tirare fuori gli scoppietti per sparare a qualsiasi alieno che vedevano per Un Wolfgango Lusetti, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io volevo un attimo... Rieccoci con lei. Che in realtà ne parlano come... se fosse qualcosa che non è così lontano dalla possibilità di essere un avvenimento reale. Qualcosa di imminente quasi, sì. E io penso che alle divertenti regole che sono state elencate da uno degli ascoltatori per difendersi dal pericolo zombie, forse c'è da aggiungere una quarta regola che è la più sicura di tutte, che è quella di fuoriuscire dalla specie umana, ecco, perché credo che questo sarebbe... qualcosa che taglierebbe la testa al toro, no? Se diventassimo... Però professore, lei, avendo approfondito il problema, in realtà comprendere, capire, fare nostro l'idea che un po' zombie lo siamo tutti è accettare la nostra condizione umana. Sì. Se lei dice che ci sono studi che noi in realtà zombie li abbiamo fatti in epoche lontane, remote, e alla fine il nostro livello di evoluzione è dato anche dal fatto che ci siamo mangiati tra di noi. accettarlo, non detto che è qualcosa che vada fatto, ma è una nostra paura dentro che possa ritornare fuori il padre che si mangia il figlio che si mangia il padre, che è mitologico ma affonda le radici in una realtà storica. Ma io andrei ancora oltre, cioè direi che ci stiamo mangiando l'un l'altro anche adesso, insomma mi pare che basta guardarsi attorno per vedere questa cosa operativa ovunque, a tutti i livelli, politico, militare. Però questo è sempre, nella storia, nella mitologia, l'uomo è sempre stato un lupo per l'altro uomo, sì, senza fare citazioni, quindi questo non... Il fatto però, il grande passo è vedere nel piatto, invece che la cotoletta, la bistecca e la salsiccia, la mano, il piede, questa è la cosa, le incisioni che più spaventano della leyenda negra, dei conquistadores, è proprio quello di vedere questi Maya che si abbrustolivano gambe e braccia, quello ci impressionava. Sì, ma vede, c'è un discorso da fare qui, che in realtà il cannibalismo, così come emerge appunto nella cultura, nel mito, nelle fiabe, anche attualmente, in realtà è proprio una ritualizzazione, cioè una concentrazione di questo divoramento reciproco più vasto che altrimenti prende la mano, cioè fa parte di un rituale. Molto spesso esistono dei rituali anche a livello religioso che danno proprio l'impressione di avere lo scopo di circoscrivere il fenomeno, no? di farlo diventare qualcosa che riguarda una minoranza, che riguarda... La fase più alta della nostra religione è proprio... partecipare a un corpo mistico, esatto, attraverso, esatto, un'eucaristia, esatto, che è una non simbolica ma reale e efficace carne e sangue del Salvatore che passa attraverso i fedeli. Esatto, per cui paradossalmente forse si potrebbe dire che il fenomeno zombie è invece un anticorpo esso stesso, no? Rispetto a fenomeni di aggressività, di predazione umana che sono ben più vasti di questo, insomma. La ringrazio, professore. Velocemente, Andrea? Andrea non c'è, Andrea abbiamo già avuto. Allora, lasciamo la linea alle informazioni del traffico, poi svolteremo pagina, vedremo un'altra lettura molto interessante della psicosi zombie, ma anche della fantastica vena letteraria e poetica che sta dietro questa paura antichissima del fatto che noi qualche morsettino e qualche buona masticata ci siamo date in passato. Melog, la realtà condivisa. Il nostro nemico, come in molti casi, è una malattia. Una malattia, in quanto tale, va gestita, prevenendo ed evitando il diffondersi del contagio. Quello in cui questa malattia differisce è che, oltre ad uccidere la persona contagiata, la trasforma, la fa cambiare, la fa diventare uno strumento affamato, spietato, senza controllo, e che perde tutte le sue capacità mentali. È talmente diffusa l'idea che l'attacco zombie sia vicino sia prossimo che esistono metafore, incontri, persone che si riuniscono e fanno dei reali corsi per spiegare come ci si comporta nei confronti degli zombie. Questo è l'argomento del giorno, 800240024. Non vi spaventate, da quando si è sentito mordere le tenere innocenti carni di ascoltatori dai denti affamati, assetati sangue dalla motosega, non chiama più nessuno, tranquilli, non la usiamo più. Carlo Callegari, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Lei mi conferma che in realtà è un filone anche letterario, anche creativo, quello degli zombie. In che maniera si sta anche nel nostro paese esprimendo? Ma assolutamente è un filone letterario. Noi ad esempio, come The Survival Diaries, abbiamo provato a fare questo esperimento di scrittura. Siete un gruppo di scrittori, ha aperto un blog che naturalmente ogni giorno fa un diario di sopravvivenza, come se realmente o probabilmente voi siete avanti rispetto agli altri, considerando il fatto che i morti viventi sono alle porte. Sì, era interessante considerare di ambientarlo proprio in Italia, quindi a casa nostra. E partiamo come autoscrittori, ma il blog appunto è aperto a tutti ed è interessante vedere come i pochi Anche, può dare anche diciamo, l'indirizzo, anche se l'abbiamo linkato nella nostra pagina, così chi vuole va a vedere. www.thesurvivaldiaries.blogspot.com. Appunto è aperto a tutti e la cosa interessante è stata vedere le adesioni che sono arrivate un po' da tutta Italia, quindi noi abbiamo cominciato da Padova e nel tempo, nel giro di qualche giorno alla nostra mail sono arrivati vari messaggi di ragazzi comuni che appunto volevano dare il loro contributo. Cos'è? Quindi, diciamo, un romanzo collettivo in itinere in cui ognuno mette il suo contributo di quello che vede e sente. Facile dire, raccontami gli zombie che stanno dietro l'altra porta, chiunque risponderebbe. Ma funziona perché fondamentalmente ha pochissime regole, quindi pochi paletti, ed ognuno è veramente libero di scrivere un po' quello che vuole. Quindi abbiamo la persona che è rintanata in un bunker e pensa di rimanere là fino alla fine dei suoi giorni, chi tenta il suicidio, chi si vuole suicidare, chi tenta di reagire appunto uscendo per la strada ed affrontando questi zombie pericolosi. E la parte interessante è appunto questa, cioè vedere ogni persona come reagisce davanti a queste cose. Ecco, se lei potesse darmi un'idea generale, visto che segue questo blog, come si articola la paura dello zombie? Non è una paura è una paura transnazionale, nel senso non è legata soltanto ai luoghi fisici in cui i film e i telefilm di zombie ambientano lo zombie. Ormai chiunque sa di poter vedere lo zombie anche nell'orticello di un paesino del Bergamasco o nella campagna del Catanese, capito? Ognuno pensa che lo zombie ci può essere. Sì, è la parte appunto interessante di questo esperimento, cioè che anche nel paese più piccolo e più isolato d'Italia ormai ci potrebbe essere un attacco zombie, ed è molto interessante appunto vedere come le persone poi reagiscono a questa paura. E qual è, diciamo, i sintomi di reazione più? Io sto scorrendo il vostro blog, ci sono varie maniere, chi elenca i generi di prima necessità, vedo i titoli, munizioni e diesel, idrovolanti, Photoshop, porn, pallone. Mi dia qualche lettura più profonda rispetto ai titoli che ho elencato adesso io. Ma quello che noi raccomandiamo ad ogni persona che ci invia un post e che poi noi pubblichiamo è di essere se stessa e quindi di comportarsi come si comporterebbe nella vita di tutti i giorni. Cioè, dando il contributo più possibilmente legato alla sua esperienza per la catastrofe che tocca tutti. Ma a me è capitato, io ad esempio ho inserito un post dove comunque decidevo di uscire dal mio bunker e mi ritrovavo la bambina del vicino di casa in versione zombie. Zombificata, deve abbatterla. Una bambina che magari avevo tenuto in braccio fino al giorno prima dovevo abbatterla. Quello però è l'aspetto atroce dello zombie, che uno si trova di fronte il padre, la madre, i figli. Nei telefilm spesso ci sono quelli che si accaniscono a tenere chiusi in delle stalle, in dei garage, in dei posti chiusi i familiari sperando che possano guarire, e finiscono sempre vittime degli stessi familiari. Quindi è un'analisi anche abbastanza profonda poi della società, quindi anche perché qualcuno ha scritto che non bisogna aver paura solo degli zombie ma anche della razza umana, perché comunque così non si vive più. Fermiamoci un secondo, Nicola. Sentiamo Nicola. Ah beh, io sono proprio uno zombie, sono. Sì? Nel senso, sono uno zombie, nel senso che io ho un grosso malformazione al cuore e sono in lista attesa per un trapianto. La cosa più divertente è dire alle persone che incontro, o amici, che piacerebbe avere il tuo cuore, quello si trova a mangiarti. Quindi lei si sente lei sta aspettando un trapianto di cuore, quindi sì. Lei pensa che un cuore battente in questo momento fa il suo lavoro, dovrebbe essere strappato da un altro e messo dentro di lei. La sintesi è questa. Esattamente. E questo la fa sentire zombie. Certo, perché sono morto per cammino, perché ogni giorno che cammino sono ancora vivo, ma sono morto. Però lo zombie divora, mangia, distrugge. Io a tutti gli effetti divoro il cuore di qualcuno, su questo non ci sì, questo quando, arriva quando arriva il momento sarà il suo. Sì, però il divorare dello zombie è un divorare senza prospettive. Lo zombie divora io e finisce. Io metto più paura degli zombie finti. Però è una realtà, è una realtà con cui bisogna fare i conti anche per chi non ha il suo problema. Esiste. Sì, ma io credo di mettere più paura io che uno zombie, perché i zombie sono finti. Ma lei non mette paura, lei è una persona che sta aspettando una via di importante svolta, le auguro di trovarla prima possibile. Cammino con la signora con la faccia a fianco. Ma quello è ognuno di noi, guardi, nessuno è salvo da questo. Io ho visto una moto spiaccicata per terra con un ragazzo giovanissimo poco tempo fa, e quello è uscito da casa la mattina, stava bello in salute, magari andava in palestra a giocare a calcetto. Sì, ma sono d'accordo. Il problema è che io personalmente me la vedo a fianco, altri pensano che non ci sia, la vedono lontana. Perché dimenticano una pratica importantissima che bisognerebbe fare ogni mattina, guardarsi allo specchio e ricordati che devi morire. Comunque io voglio essere questa mattina in cui parliamo di morti viventi con lei ottimista, e quindi le auguro di trovare questo cuore il prima possibile. Tanto se lo danno a lei, all'altro non serve più di sicuro, si metta il cuore in pace. Tanto glielo danno a uno che ormai non ci rimane più niente intorno a quel cuore, quindi è un bel regalo, se lo usi al meglio. In bocca al lupo, buona giornata. Buona giornata. Mario. cioè, riesco a far ridere un trapiantando. Mario? Pronto? Eccomi. Ciao. Sì. Ma, io forse vado un po' fuori argomento, perché no, io non credo minimamente agli zombie. Non ci crede? No. Lo so, questo lo so, tanta gente non crede, pensi, ci sono persone che non credono nemmeno a Babbo Natale, si faccia curare. Però quello che credo è che posso diventare zombie io. Quindi ha uno spiraglio alla sua fede, è aperto. Uno spiraglio alla fede è aperto. Lei può... È un timore. Perché solo lei, in tutta l'umanità, solo lei, non può accadere che anche agli altri. No, è tutta la società che sta diventando piena di zombie. È satira politica anche questa, no, me lo dica. No, perché... No, però nel senso, io facevo riferimento a un libro, non so perché parlando di zombie mi viene in mente questo libro, American Psycho. Non ho capito, libro? È American Psycho di Bretton Ellis. Sì, sì. In cui lì c'è il protagonista e non c'è nessun approfondimento psicologico, parla tutto di superficie, se incontra un'altra persona non descrive se è simpatico o antipatico. Mica fondamentale sempre cercare dei sensi nel profondo. A me piacciono anche le letture piane, mi piace molte volte della insensibile e piatta superficialità. Parliamo di zombie, lo zombie non c'ha nulla in profondo, c'ha solo carne marcia, lo zombie cammina e ci spaventa, lo zombie ci vuole mangiare per farci diventare come lui, non c'è molto di più da dire. Chiudiamo con Carlo Callegari, allora, lo scrittore che gestisce assieme ad altri suoi colleghi un blog che, come vede, stiamo dando semplicemente noi, anche noi questa mattina, fondo a tutte le letture possibili della zombità come categoria possibile dell'esistere. Penso che questo esperimento abbia un termine, quindi noi comunque era prefisso che finisse tra un po', anche per non farlo durare troppo, però volevamo legarlo insomma a una stagionalità, quindi chiudere magari a giugno e poi ripartire a settembre con nuove idee e nuove ambientazioni. Anche perché, Callegari, non vorrei suggerirvi il mestiere, ma se avete intenzione poi di farne un libro, come immagino che sia, il momento direi che adesso, mai come in questo momento, si parla tanto di zombie, e il 2012 del famoso calendario Maya, la profezia ci vorrà tutti morti, è molto legato anche a questa idea della paura dello zombie. Molti vedono, avevo dimenticato di dirlo in apertura, questi sintomi di cannibalismo come sintomi che il mondo sta finendo, e quindi do uno stupendo argomento per Giacobbo per le prossime trasmissioni. Oltre al mistero Maya, i cerchi nel grano e il Sancro Graal, c'è anche l'idea dello zombie, potrebbe entrare in questo mistico circuito che preannuncia l'apocalisse e la nostra fine. Grazie, a domani.